un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, ben ritrovati all'altra Europa, come ogni settimana qua per raccontare l'Europa delle storie, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità e poi tutte quelle contaminazioni che cercano di narrare questo progetto comune, questa utopia per tanti, questa opportunità per noi, chiamata Europa, quella che è l'attualità politica ed economica, viene descritta giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo, come ben sapete, altri punti di vista. Radio24.it, il nostro sito dove poter trovare i contributi extra e scaricare poi il podcast, e poi i nostri social, il mio personale chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, link che potete leggere minuto per minuto in continuo aggiornamento. Ogni settimana tante voci, tanti viaggi. Oggi si parte da Kiev. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Kiev, Eurovision Song Contest 2017, la manifestazione europea canora che si sta tenendo in questi giorni, lo avete riconosciuto, era la voce di Francesco Gabbani. Ma andiamo a capire quello che è successo e quello che sta succedendo in queste ore a Kiev, e lo facciamo con la nostra Marta Cagnola, che proprio a Kiev si trova. Ciao Marta! Ciao Federico, che ansia, mancano poche ore, che ansia, ti dico solo che ansia. Cioè, ormai ne hai già fatti diversi di Eurovision, ti porti dietro ancora? Questo è il sesto in trasferta, ne ho visti tanti in TV, anche da ragazzina, da appassionata, e poi ho fatto anche degli Uno Eurovision, quelli dei bambini, ma l'Eurovision da grande ne ho fatti sei, questo è il sesto. L'ansia è perché, insomma, prima dell'Eurovision eravamo vincitori annunciati, ma essere vincitori annunciati porta sfortuna. Mm-hmm. Infatti diciamo che questa sera no, sarà una gara vera, ce la dobbiamo giocare, ce la giochiamo con degli avversari forti, perché non è detto che ce la facciamo, anzi ho molta paura. Però, come dice Francesco Gabbani, comunque vada, Pantarei and Singing in the Rain. Quindi, ragazzi, ce la giochiamo. Ho avuto la possibilità di intercettarlo prima della partenza e mi sembrava abbastanza tranquillo. Tu lì l'hai visto? Sì. Tra l'altro, guarda, lo sentiremo al sabato del villaggio alle 15. Ottimo. Perché l'abbiamo, ci abbiamo passato un po' di tempo insieme, abbiamo così chiesto a lui anche questa cosa del favorito, che è stata un po' così, una responsabilità per lui. Ti dico la verità, molto stanco, perché quegli impegni sono tanti, tante interviste al giorno in inglese, con paesi che non conosci, quindi sai, doverti spiegare a un armeno, a un azero, a un bielorusso, non è come avere a che fare solo con la stampa italiana, hai a che fare con tutta Europa. È bellissimo, però poi sai, tutti lo volevano, lui è la scimmia. Come è stata accolta la scimmia? È stata capita? Tutti erano ansiosi di vedere la scimmia. Sì, è stata capita, devo dirti che ovviamente tutti le sentono prima le canzoni, perché non sono canzoni inedite. Certo. E quindi tutti conoscevano perfettamente Occidentali Scarma, tutti fanno una mattea lei nel momento giusto, e soprattutto lui non può andare in giro da nessuna parte, perché tutti gli chiedono selfie, tutti gli chiedono della scimmia. È veramente amatissimo, io non avevo mai visto, se non con Il Volo, che insomma anche Il Volo era molto molto conosciuto, molto amato, non avevo mai visto una cosa del genere. Credo che per lui, davvero, comunque vada, sia stata una bella esperienza che gli possa permettere di aprire veramente la sua carriera all'Europa, perché è piaciuto tanto, davvero tanto. Certo. Marta, appunto, sesto anno live, tante edizioni viste in televisione, ti faccio una domanda più di costume, allargandola anche a quelle che sono un po' le tematiche che tocchiamo con il nostro programma. Questa Europa si respira lì, perché ovviamente è una contaminazione secondo per secondo, ma entrano le tematiche europee o hai visto cambiare qualcosa nel variare degli anni? Guarda, io la seguo da appassionata fin da bambina e mi ricordo davvero davvero il cambiare dell'Europa. I primi anni c'era solo una serata, c'era solo quella che adesso sarebbe la finale, semplicemente perché i paesi erano di meno. Poi è caduto il muro, sono arrivati tanti paesi nuovi e in quegli anni, 89-90, c'erano tanti testi di canzoni che parlavano di quello. E quindi sono arrivate le semifinali, si è allungato perché i paesi sono diventati tanti. Ci sono stati momenti belli e momenti difficili. Quest'anno si sono vissuti dei momenti molto difficili e spiacevoli, perché sappiamo che la Russia non ha partecipato, perché la cantante che era stata scelta ha cantato in un paese conteso come la Crimea, senza un permesso dell'Ucraina. Per l'Ucraina questa cosa non è legale e quindi le è stato negato l'ingresso nel paese e la Russia ha deciso di non partecipare. Quindi inevitabilmente queste cose geopolitiche intervengono nel male, ma anche nel bene, perché poi alla fine ti rendi conto che sai, ci sono delle tensioni tra i paesi, ma mai tra i cantanti o tra i fan. Questo assolutamente mai. E sarebbe bello se fosse così, insomma, anche al di fuori delle canzoni. Certo. Marta, c'è lo spettacolo e poi c'è lo spettacolo che nello spettacolo, che è un po' il backstage, che credo che ti incuriosisca anche a te. Vedere anche i colleghi come lavorano. Ci sono differenze da nazione a nazione? Guarda, io ho la fortuna, così avendo una certa anzianità di servizio, di avere anche un accesso privilegiato al backstage, di aver fatto anche delle belle cose dietro le quinte. Sono molto colorati tanti colleghi, c'è lo scozzese Ewan, che è bravissimo, che ovviamente gira col kilt, c'è qualcuno che gira con dei pupazzi che fanno le interviste, ci sono splendide ragazze che parlano in lingue assolutamente incomprensibili, ma insomma vengono da paesi in cui la bellezza è di casa. Allora io ho chiesto a Francesco Gabbani se le interviste sono bizzarre, mi ha detto in gran parte le domande sono un po' le stesse, perché le curiosità è inevitabile che siano le stesse. La più assurda che gli hanno fatto, vabbè, ve lo anticipo, me lo ha raccontato nell'intervista, un giornalista tedesco gli ha chiesto di cantare Occidentali Scarma imitando Ramazzotti, Celentano e la Pausini. Sulla Pausini facile. Non era proprio ferratissimo, perché non è tanto facile, però davvero poi ci sono tanti fan, no, è veramente una grandissima esperienza. Una bella festa. Allora, Eurovision.tv, ovviamente il sito per tutte le informazioni, questa sera la diretta e dalle 15 il sabato del villaggio, che oggi diventa particolarmente europeo, appunto con i collegamenti anche da Kiev. Grazie Marta, divertiti. Un abbraccio, grazie a voi, ciao Federico. Ciao, buon sabato. Ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Stage al Parlamento Europeo. Sei alla ricerca di un'esperienza lavorativa internazionale? Ogni anno il Parlamento Europeo offre la possibilità a centinaia di giovani di effettuare un periodo formativo di 4-5 mesi nella propria sede di Bruxelles. Il prossimo turno di tirocini retribuiti per neolaureati andrà dal 1 ottobre 2017. E la scadenza per le candidature è imminente. Avrai infatti tempo per fare domanda fino al 15 maggio. I candidati devono essere cittadini europei maggiori di 18 anni e avere una conoscenza approfondita di almeno una lingua ufficiale dell'Unione. Sono disponibili tirocini in diversi campi e a diversi livelli di istruzione. Tutti consultabili nella sezione Lavorare al Parlamento del sito europarl.europa.eu. L'altra Europa. We are the reckless, we are the wild youth, chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth, that one will die before he gets. You're still bleeding, you're the lucky ones. 'cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from the flood. Una settimana di festa, quella che si è appena conclusa per l'Europa, la festa dell'Europa, i suoi simboli, ma non solo, perché questa festa, questi simboli diventano occasione per riflessioni, incontri. L'Europa che scende anche nel territorio per farsi capire, farsi conoscere. L'Europa anche che prende posizione, l'Europa che dà voce ai giovani, e questa voce diventa proposta, diventa idea, diventa innovazione. Idee, innovazioni, visioni che sono diventate strumento per i decisori politici. Questo è successo a Firenze, dove si è concluso un progetto importante, un progetto che ha visto protagoniste due associazioni, Erasmus Student Network e Garage Erasmus, che sollecitati da Indire e dalle agenzie europee hanno realizzato, costruito, generato questa carta della generazione Erasmus da consegnare in mano appunto ai decisori politici. Questa carta è stata consegnata alla ministra Valeria Fedeli, è stata consegnata al sottosegretario al Ministero del Lavoro Luigi Bobba ed è stata consegnata al sottosegretario con delega alle politiche e agli affari europei Sandro Gozi, che più degli altri forse ha voluto e ha lavorato a questo progetto. E è qua con noi l'onorevole Sandro Gozi. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno e ben ritrovati a voi. Una carta importante quella che vi ritrovate ora tra le mani. Molto, molto, molto. La Casa della Generazione Erasmus è un bellissimo lavoro frutto dell'entusiasmo, dell'esperienza e delle idee degli studenti, degli ex studenti Erasmus, ed è anche un documento, oltre che civico, anche politico, molto, molto interessante, che noi adesso useremo al massimo per portare avanti le istanze dei giovani Erasmus, che sono anche le nostre. Gozi, intanto una critica che fanno spesso i giovani al palazzo è quella di parlare burocratese, di essere molto vaghi nelle proposte. Come si sono comportati loro? Sono stati più diretti, sono stati più concreti e comprensibili nel linguaggio? Sono stati comprensibili anche nella grafica del documento, e guardi, non è un dettaglio. Perché quando hai le idee chiare riesci anche graficamente a metterle in modo molto chiaro. Certo. E ci sono una serie di proposte che adesso vanno incanalate, vanno declinate in azioni politiche, ma mi sembra che abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. C'è qualcosa che l'ha sorpresa particolarmente? Mi è piaciuto l'importanza che hanno dato ai diritti fondamentali, allo Stato di diritto. Cioè è bellissimo, e oltre a trovarmi d'accordo, mi ha veramente fatto molto molto piacere da membro del governo che gli studenti Erasmus, oltre a fare tante proposte di cui magari che citiamo su come migliorare l'Erasmus, abbiano indicato nella applicazione quotidiana della democrazia e dei diritti dell'uomo nell'intero continente una delle loro grandi priorità. Mi sembra il messaggio è la scelta migliore per capire che cos'è innanzitutto l'Europa, e l'Europa è innanzitutto democrazia, libertà e valori fondamentali. Certo. Il fatto che loro chiedano un ministro europeo per verificare il rispetto della democrazia con poteri sanzionatori in tutti gli stati membri mi sembra una cosa molto molto importante. E nel presentare questa carta, nell'innescare anche il processo di redazione, diciamo, lei ha detto noi siamo la generazione Erasmus, abbiamo avuto tanto dall'Europa, è ora di restituire qualcosa all'Europa, diventando appunto propositivi e propositori. Questa vocazione, questa missione è stata soddisfatta da questa carta? Assolutamente sì. Gli Erasmus che hanno redatto questa carta hanno restituito qualcosa all'Europa di quello che hanno avuto, e anche indicano come l'Europa può crescere meglio e crescere di più scommettendo sui suoi successi. L'Erasmus è certamente un successo, ma deve diventare un Erasmus più giusto dal punto di vista sociale, quindi è giusto fare in modo di includere anche i giovani studenti che non hanno le possibilità economiche di andare all'estero. Deve essere un Erasmus per tutti, e quindi è giusto espanderlo ancora di più rispetto a quanto si è fatto oggi agli apprendisti, agli imprenditori, ai piccoli imprenditori, al mondo dello sport. L'Erasmus deve essere un Erasmus globale, cioè deve darci anche gli strumenti per essere europei e protagonisti nella globalizzazione, e questo richiede consapevolezza, quindi storia contemporanea, educazione all'Unione Europea, cittadinanza attiva attraverso l'educazione civica, attraverso l'Erasmus. Sono veramente delle proposte di grandissima rilevanza e sono le proposte per costruire l'Europa che vogliamo. Noi dobbiamo salvare l'Europa da chi la vuole distruggere, ma dobbiamo anche salvare l'Europa dagli errori che ha fatto, e per farlo dobbiamo invece scommettere sui punti di forza. L'Erasmus e le proposte che la carta della generazione Erasmus fa vanno esattamente nella direzione di cui stiamo parlando. Nel frattempo il governo italiano ha fatto richiesta di aumentare di non poco i fondi Erasmus, vero? Noi abbiamo chiesto di moltiplicarli per 10, perché se in questi ultimi 30 anni, tutti inclusi, sono stati quasi 4 milioni i giovani che hanno partecipato all'Erasmus o altre esperienze all'estero grazie all'Europa, devono diventare nei prossimi 30 anni 40 milioni. E dato che l'Erasmus è per definizione la storia di successo, dedicare all'Erasmus solo l'1% del bilancio dell'Unione Europea è veramente una contraddizione in termini. Noi dobbiamo costruire un'Europa che moltiplichi le opportunità, soprattutto alle giovani generazioni. L'Erasmus è un moltiplicatore di opportunità, moltiplichiamo per 10 le risorse Erasmus. Un grazie a Sandro Gozzi, sottosegretario con delega alle politiche e agli affari europei. Buon sabato, Gozzi. Grazie a voi, buon sabato. Tantissime, come avevo detto anche prima, iniziative in questa settimana dedicata all'Europa. Tra le tante, però, ne abbiamo scelta una che ci è piaciuta particolarmente. Sarà per l'orario della nostra messa in onda, sarà perché la tavola è ovviamente luogo dell'incontro, luogo della contaminazione, luogo delle culture che si possono assaggiare e non solo in senso metaforico. Quindi ci è piaciuta molto l'iniziativa lanciata dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'Agenzia di Parma, che di fatto ha messo a tavola tutta l'Europa grazie ai tirocinanti. Sono 64 impegnati nell'agenzia, età media 27 anni, e hanno chiesto ai tirocinanti di proporre un piatto delle loro origini. 11 piatti che hanno restituito sapori e tradizioni dell'Europa, non ve li possiamo ovviamente presentare tutti, ma un paio sì. Con noi intanto c'è Eliana Pagnutti, 22 anni, belga. Ciao Eliana. Ciao. Ciao, grazie per essere qua con noi. E da quando sei a Parma? Da quando è iniziato il tirocinio? Allora, io sono a Parma da ottobre dell'anno scorso, quindi saranno più o meno 7-8 mesi che sono qua in Italia. E di cosa ti occupi? Allora, io sono una tirocinante nell'unità relazioni esterne, nell'ufficio stampa. Ma ci sai fare in cucina? Più o meno, ho provato a fare una ricetta tipica belga che si chiama lo stumpo carotte, però insomma, cioè, è semplice da fare, però non è che molto talento. Ok, però il risultato finale com'è stato? Sì, è stata un'esperienza bella. Come ho detto, non è difficile come piatto da fare, quindi dai, me la sono cavata. Dai, fai un attimo il momento MasterChef, raccontaci un po' come è fatto questo piatto, da cosa è composto e come si realizza. Allora, in pratica è uno stump o carotte, che è una purea di patate con carote, pancetta, sale, pepe e noce moscata. Quindi molto semplici, si fanno bollire le patate e le carote e poi si crea appunto questa purea che poi si può mangiare da sola o anche con carne e appunto un piatto tipico belga, okay. Molto molto semplice alla fine, sì. Secondo te l'Unione Europea passa anche per la tavola? Sì, assolutamente, secondo me noi sì, ogni giorno comunque mangiamo piatti di paesi diversi, magari anche senza rendercene conto, quindi no, di sicuro. Poi questa esperienza con gli altri tirocinanti dell'EFSA secondo me rappresenta proprio le diversità dell'Unione Europea, però comunque per pranzo ci si ritrova tutti alla stessa tavola, quindi... Grazie Liana, al tuo fianco ti grazie chiedo di presentarci, sì, passarci Giulia Hillenberger, 28 anni, è francese. Intanto vi do il sito che è www.efsa.europa.eu/it, questo è il sito dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Ciao Giulia. Ciao. Ciao, benvenuta anche a te. Quale piatto hai preparato? Allora, io ho preparato un moelleux au chocolat, una torta al cioccolato, che è una ricetta che ho imparato dal chef dell'Eliseo quando lavoravo a Parigi in un startup digitale. Uh-huh. È un classico francese, un dolce che si può trovare in ogni ristorante. Com'è stato il risultato finale? Hanno apprezzato i tuoi colleghi il tuo dolce? Molto buono, lo hanno mangiato tutti, quindi è un dolce che è più semplice da fare, si fa in 10 minuti e 10 minuti nel forno, quindi è più rapido. Uh-huh. E più rapido da mangiare anche. Certo, leggevo in questa scheda di presentazione che tu ami particolarmente i tortelli di zucca, vero? Ah, sì, ma io sono a Parma un anno fa e i tortelli di zucca sono il classico locale. Grazie davvero, complimenti anche a te Giulia, ciao. Ricordiamo ancora il sito efsa.europa.eu, a tavola con l'EFSA, i 64 tirocinanti che si sono messi in gioco proponendo un piatto del loro paese d'origine. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, @ Federico Taddia, Twitter e Facebook, lì potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ora andiamo a giocare con l'Europa e lo facciamo come ci piace fare, presentando un progetto europeo che si sta avviando verso la conclusione, progetto europeo che si chiama Play for Guidance, un progetto europeo per stimolare la cultura imprenditoriale, 5 paesi coinvolti, oltre all'Italia, la Germania, l'Irlanda, la Grecia e la Turchia. Ne parliamo con Aurelio Ravarini, docente della Scuola di Ingegneria Industriale della Università Cattaneo, la LIUC di Milano, che è coinvolta appunto nel progetto. Buongiorno Ravarini, buon sabato. Buongiorno. Buongiorno. Si può imparare a diventare imprenditori giocando? Sembrerebbe proprio di sì, è quello che almeno stiamo facendo ormai da tanti anni alla LIUC, attraverso questo business game che abbiamo sviluppato e che impieghiamo per varie finalità, dall'orientamento degli studenti delle scuole superiori alla formazione all'interno di alcuni nostri corsi, fino al progetto a cui ha accennato lei brevemente, in cui attraverso il gioco non soltanto si impara, ma si possono anche autovalutare delle competenze difficili normalmente da comprendere e sulle quali stimare il proprio grado di apprendimento e grado di sviluppo. Martedì 16, durante una conferenza stampa, verrà fatto un po' il bilancio di questo progetto, poi il 30 maggio è prevista una competizione internazionale, ma a chi è rivolta? I ragazzi dell'università o gli studenti anche più giovani? Allora, il progetto è un progetto ambizioso, si propone fornire questo strumento di gioco online a un insieme abbastanza variegato di persone che hanno l'obiettivo da un lato appunto di apprendere competenze manageriali, dall'altro lato di autovalutarle. Quindi abbiamo già verificato che questo gioco riesce a coinvolgere, a stimolare l'apprendimento a livelli diversi. Diciamo che è fortemente versatile, per cui l'abbiamo utilizzato, come dicevo prima, in contesti diversi, e quindi anche in questo caso, in questa competizione internazionale, saranno in luoghi diversi persone che appartengono ad età diverse e a contesti diversi. Con noi c'è anche Giorgio Terusti, che è studente di ingegneria gestionale della LIUC. Giorgio, ciao, buon sabato. Buon sabato. Com'è andata? Hai giocato? Sì, sì, ci ho giocato un po' su. E com'è stata come esperienza? Allora, è un'esperienza interessante, diciamo diversa dal solito, perché non se ne vedono durante gli anni delle università e neanche delle superiori. Eventi, esperienze simili non sono ancora proposte, diciamo, dalla scuola. L'ho trovata per la prima volta qua alla LIUC ed è un'esperienza che insegna molto, perché oltre ai contenuti, appunto, come dicevate voi, di conoscenze imprenditoriali, insegna anche come prendere decisioni, e decisioni che devono essere prese da solo, con dei dati alla mano, e quindi diciamo che stressa il giocatore anche sotto questo punto di vista. Italia, Germania, Irlanda, Grecia, Turchia, ripeto ancora le nazioni. E Ravarini, una stessa cultura imprenditoriale in cinque nazioni apparentemente, e non solo, così diverse? Ho lavorato molto nel progetto per cercare di andare a identificare quali erano le competenze obiettivo sulle quali leva attraverso il gioco. Quindi il team internazionale ha proprio cercato anche di far fronte a queste differenze. Sono stati lanciati una serie di ricerche specifiche regionali, localizzate appunto in ciascuna di queste nazioni, per far emergere le competenze comuni. E stiamo parlando di competenze non specialistiche. Questa è un po' una caratteristica particolare di questo progetto e del business game. Quindi competenze di natura trasversale, come la capacità di pensare in modo sistemico, la capacità di reperire velocemente informazioni, la capacità di collaborare, la capacità di fare delle analisi numeriche in tempi ridotti, come prima appunto citava anche lo studente. Play4Guidance.eu, questo è il portale per conoscere nel dettaglio il progetto. Un grazie al professor Ravarini, un grazie a Giorgio Terusti, buon sabato. Rimini Wake Up 2017, la tre giorni che inizia il 23 maggio per mettere al centro la sharing economy, dalla sharing economy alla rigenerazione urbana, quella che è l'innovazione sociale anche attraverso il digitale. Una tre giorni che vede nella sua apertura anche una tappa di un progetto europeo che ha finalità varie, tra le quali quella di preparare un manifesto da proporre poi a Bruxelles, dove al centro c'è proprio l'educazione, diciamo, all'innovazione, l'educazione al digitale. Ne parliamo con Monique Calisti, che è direttore della Marvel Innovate e coordinatrice del progetto Chic e promotrice anche di questa giornata a Rimini. Ciao Monique, buon sabato e benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno Federico e grazie dell'ascolto. Allora, qual è l'obiettivo di questo workshop che proponete a Rimini? Allora, questa giornata prevede di presentare un primo draft, una prima versione di un manifesto per l'innovazione digitale e sociale. Come hai detto tu in apertura, nel contesto dei finanziamenti della Commissione europea c'è un programma che è destinato alla promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione ai fini di migliorare, di indirizzare problematiche sociali e ambientali. CIC, il progetto che coordino, che la mia ditta Martel coordina, organizzerà quindi questa giornata durante la quale presenteremo un primo draft del manifesto che si articola attorno a 5 punti essenziali e lo presenteremo grazie anche alla contribuzione di docenti universitari, di esperti del settore che verranno un po' da tutta Europa. Monique, come mai il bisogno e l'urgenza di un manifesto? Quali sono le carenze che avete evidenziato? Allora, questa è una domanda molto molto importante, perché effettivamente soprattutto in una fase di transizione come quella che stiamo vivendo anche a livello di finanziamenti europei per la ricerca nel settore delle tecnologie digitali, è fondamentale andare a capire quali sono le priorità, quali sono diciamo anche i principali ostacoli alla realizzazione di un'innovazione che vada a beneficio del cittadino. Quindi, mentre le tecnologie internet hanno ormai pervaso nel quotidiano la nostra vita e le nostre case, la necessità qui è quella di capire come in realtà questa tecnologia possa contribuire a migliorare la qualità di vita, quindi sia in ambito, diciamo, puramente cittadino che in ambito sociale. RiminiWakeHub.it, questo è il portale con tutto il programma della tre giorni, e c'è un indirizzo internet specifico anche relativo alla giornata. Sì. Allora, la nostra giornata è la prima giornata di questa tre giorni Rimini Wake Up 2017. Il portale al quale potete iscrivervi se siete interessati a partecipare alle discussioni e alla stesura del manifesto è www.dsimanifesto.eu. Perfetto, quindi, questo è l'indirizzo a cui fare riferimento. Seguiremo sicuramente i lavori poi nel loro sviluppo prossimo, anche perché vogliamo conoscere poi il risultato finale e magari leggere insieme i punti salienti di questo manifesto. Grazie davvero a Monique Calisti, buon lavoro Monique. Grazie Federico, a presto, grazie. Noi adesso ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. Notte Europea dei Musei 2017. A tutti gli appassionati di arte e beni culturali, il 20 maggio torna come tutti gli anni la Notte Europea dei Musei. L'iniziativa, nata per volere del Consiglio d'Europa, vedrà musei e spazi espositivi d'Italia e di tutto il continente aprire le loro porte ai visitatori fino a tarda notte. Alcuni, per l'occasione, metteranno il biglietto alla cifra simbolica di un euro, altri saranno gratuiti e altri ancora offriranno sconti sull'ingresso. Per informazioni sulle strutture aderenti, orari e prezzi, visitate il sito del vostro comune di riferimento. L'altra Europa. Darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way apart, camminiamo, quante volte insomma abbiamo sentito dire che quello dell'Europa è un cammino che noi cerchiamo anche di narrare attraverso i tanti cammini presenti all'interno del continente europeo. Conosciamo bene gli itinerari culturali europei, ormai sono una trentina, sono questi sentieri, questi tracciati, questi percorsi capaci di accomunare ma anche mettere, sottolineare le differenze che ci sono tra le varie nazioni, però sono percorsi appunto che vanno al di là dei confini dei singoli stati, quindi permettono proprio di incontrare, confrontare e vivere le diverse culture. Una trentina di itinerari già esistenti e altri candidati, in particolare oggi ve ne presentiamo uno perché è particolarmente interessante nella sua idea. È un po' il percorso di San Nicola, la via nicolaiana. È stato presentato questo progetto a cui stanno lavorando già da diverso tempo. Ne parliamo con Mariangela Petruzzelli, che è vicepresidente responsabile comunicazioni e rapporti internazionali dell'associazione europea Nicolas Root, la via nicolaiana. Buongiorno Mariangela, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti voi e grazie di questo momento per parlare appunto della Nicolas Root. Ma è proprio quel San Nicola, è Babbo Natale, adesso la sintetizzo brutalmente? Beh, in realtà San Nicola è questo grande santo che le cui poi spoglie furono riportate da Mira, insomma, nel 1087 dai mercanti, insomma, dai pescatori, insomma, baresi, sì. E ci sono state anche recentemente a Bari le festività del 6 e 7 maggio, dove si è rinnovato anche il miracolo della manna, che è il sudore, insomma, del santo, che è miracoloso. Però San Nicola è in realtà, il suo nome Nicolaos significa proprio potere del popolo, ed è l'unico santo che ha unito l'Oriente con l'Occidente, perché viene comunque venerato sia dai cristiani con la Basilica Pontificia di San Nicola appunto a Bari, e poi anche naturalmente nel mondo ortodosso. E da lì è nata anche la leggenda di Santa Claus, perché San Nicola era un dispensatore di doni, anche sì, di miracoli. Mm-hmm. È famosa la parabola che racconta che lui salvò con tre borse d'oro, insomma, dalla prostituzione tre ragazze, riconsegnandole poi ad una vita anche matrimoniale, quindi migliore, ma ne ha fatti tanti di doni. È nato poi il culto di Santa Claus perché proprio a fine 1800 dei pellegrini olandesi portarono proprio a New York, a Nuova York, il culto del santo, e da lì poi si è sviluppato, e anche nei paesi scandinavi naturalmente, insomma, questa figura di Babbo Natale sull'archetipo proprio di San Nicola, che è diventato poi il vecchietto sì, un po' il simbolo del Natale, esatto, che dispensa doni, perché certo, San Nicola ha sempre dispensato doni e miracoli, uh-huh, unendo le genti, unendo i popoli, è proprio delle differenze, esatto, insomma. Proprio da questa unione dei popoli è nata l'idea dell'itinerario, che sì, quale sarebbe il percorso ideale che voi avete disegnato? Intanto volevo dire questo, che la Nicolas Root nasce da persone di buona volontà, compresa me, anche io poi saluto anche Monia Franceschini, che è la presidente della Nicolas Root. Siamo tutti giovani imprenditori, sì. Abbiamo presentato a livello nazionale e internazionale al CNEL, al Consiglio Nazionale del Lavoro, la via nicolaiana proprio il 5 maggio scorso, con una conferenza internazionale stampa, e nasce proprio come il nuovo cammino, come quello di Santiago de Compostela, anche un marchio registrato a livello internazionale, raccontando praticamente come cammino itinerario misto, ecco, che si attesterà al Consiglio d'Europa nel programma Cultural Roots del Consiglio d'Europa proprio a settembre scorso. È un tracciato fisico continuo che è rappresentato da un fascio di vie che percorsero proprio i pellegrini ritenuti più rappresentativi del tema fondante, proprio Nicola di Mira. Mm-hmm. E il primo testimone che ha condotto questo tracciato è il monaco russo Barlam di Rostov Veliki, che nel 1459 si recò alla Basilica di Bari in seguito alla visione di Nicola, vescovo di Mira. E noi, come tracciato materiale, partiamo proprio da Rostov e attraversiamo molti stati, tra cui la Federazione Russa, l'Ucraina, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, l'Austria, l'Italia, Israele, e sono tutti territori che corrispondono alle macro regioni della Unione Europea. Non solo, la Nicolas Root comprende anche un cammino immateriale importantissimo, cioè arriva anche naturalmente anche in quei luoghi dove c'è la memoria nicolaiana, quindi anche a Malta e anche proprio a New York, dove nascerà presto, si sta lavorando per fondare una chiesa proprio a Ground Zero, simbolo poi di pace nel mondo, dedicato proprio a San Nicola. L'obiettivo di questa via nicolaiana è realizzare eventi, convegni anche socio-istituzionali importanti, creare naturalmente dei pacchetti turistici con tanti stakeholders pubblici e privati, e noi abbiamo presentato proprio a Roma tutto il gruppo dei comuni, anche degli enti privati e pubblici soprattutto, che hanno aderito alla via nicolaiana. Questo lavoro è stato fatto in pochissimo tempo, da febbraio fino al 30 aprile, in cui naturalmente componenti anche poi dell'associazione diventeranno e sono diventati anche questi enti pubblici, naturalmente la città di Bari, anche Roma Capitale, abbiamo la Basilica Pontificia naturalmente di Bari che e il Centro Studi Nicolaiani che ci sostiene culturalmente anche istituzionalmente, abbiamo anche attenzionato il Viminale, molti ministri, insomma tutti gli attori coinvolti, perché appunto sono è un percorso importantissimo che non è solo turistico, ci tenevo a dire, perché nasce in un momento in cui si è fortemente euroscettici e invece si attesta a voler diventare un tavolo, insomma, di dialogo multidisciplinare, in cui si parte dal dialogo interreligioso, dal valore socio-istituzionale e anche economico, insomma, del turismo, che diventa anche una forma di impiego solidale e di turismo ecosostenibile. Certo, perché forme nuove e moderne di turismo sostenibile e di indotto economico che coinvolge tantissimi giovani potenzialmente. www.nicolasroute.com, questo è il portale per conoscere l'intero progetto. Un grazie a Mariangela Petruzzelli e buon lavoro. Grazie a voi, ciao, grazie. E dopo aver camminato con San Nicola, ringraziamo tutta la squadra dell'Altra Europa, Valerio Rocchetti oggi alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. Poi, come sempre, un grande grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it per scaricare il podcast e trovare tutti i contributi extra, oppure sui social @ Federico Taddia mi trovate su Twitter e su Facebook. Ancora buon sabato, ciao. L'Altra Europa.